Oggi, come è già successo svariate volte nelle ultime settimane in ogni parte di Bologna, come Bologna antifascista ci siamo riuniti per contestare il raduno di Casa Pound e di fascistelli che si sta svolgendo all'incrocio di tra via D'Azeglio e via Farini. I fascistelli a quanto pare sono molto pochi e questo banchetto non sta avendo molto successo, perché un nutrito presidio di antifascisti sta girando intorno al luogo presidiato dalle forze dell'ordine, bloccando il traffico e diciamo rendendo noto a tutti quanti che Bologna è una città antifascista e non è disposta neanche in periodo elettorale a sottostare questi espedienti che servono da un lato a questa vecchia croccaglia di prendere qualche firma e dall'altro al PD che fa campagna elettorale su questi soggetti mentre al contempo li difende sprecando soldi pubblici con un ingente schieramento di polizia. Proprio su questo tema, appunto, voi ve la prendete con il PD, anche se ieri l'assessore alla sicurezza Aitini dice: beh, finché non ci sono i tribunali che li mettono fuori legge, noi non possiamo fare nulla. Voi cosa rispondete? Beh, che sono tutti quanti pretesti, sono futili chiacchiere. Qua si parla di reminiscenze fasciste che in questo periodo in Italia, come in tutta Europa, stanno emergendo in tutta la loro virulenza. Oggi questo il presidio serve proprio ad argine, per fare da argine a questa ondata nera che si sta, diciamo, sta cominciando a risvegliarsi. Al PD diciamo molto semplicemente che è evidente agli occhi di tutti la sua ipocrisia. Nel momento in cui fa campagna elettorale su questi soggetti, fomentando un antifascismo da poltrona inutile e dannoso, mentre in realtà i soldi pubblici per difendere questi soggetti, che sono anche da un punto di vista giuridico e a tutti gli effetti neofascisti e pertanto soggetti che non dovrebbero avere la libertà di manifestare per strada, quindi ecco, il PD non si mette problemi a sprecare soldi pubblici nella difesa per poi invece farci campagna elettorale sopra per raccimolare qualche voto dopo gli ultimi anni di macelleria sociale che li stanno portando al tracollo. Tu dicevi che ci sono cordoni delle forze dell'ordine che impediscono ovviamente che voi riusciate a raggiungere il posto dove c'è il banchetto. Sì, è così. Ci sono numerose camionette, numerosi plotoni che presidiano ogni lato dell'incrocio in cui i fascistelli stanno facendo il loro squallido raduno. Voi ora cosa farete? Noi adesso stiamo continuando a sfilare per le vie del centro, a farci sentire, e finché i fascisti non se ne saranno andati resteremo qua a presidiare per fare in modo che non possano andare in giro a spargere il loro pessimo odore in giro per una città antifascista e medaglia d'oro della resistenza.